In questo periodo di tempo, Antioco organizzò la seconda spedizione in Egitto. Sopra tutta la città, per circa 40 giorni, apparivano cavalieri che correvano per l'aria con auree vesti, armati di lance roteanti e di spade sguainate, e schiere di cavalieri disposte a battaglia e attacchi, e scontri vicendevoli e trambusto di scudi e selve di aste e lanci di frecce e bagliori di bardature d'oro e corazze d'ogni specie. Per questo tutti pregavano che l'apparizione fosse di buon augurio. Essendosi diffusa la falsa notizia che Antioco era passato ad altra vita, Giasone, prendendo con sé non meno di 1000 uomini, sferrò un assalto alla città. Si accese la lotta sulle mura e quando la città era ormai persa, Menelao si rifugiò nell'acropoli. Giasone fece strage dei propri concittadini senza pietà, non comprendendo che un successo contro i propri connazionali era il massimo insuccesso, e credendo di riportare trofei sui nemici e non sulla propria gente. Non riuscì però ad impadronirsi del potere e alla fine, coscio della vergogna del tradimento, corse di nuovo a rifugiarsi nella Mannidide. Da ultimo incontrò una pessima sorte. Imprigionato presso Areta, re degli Arabi, fuggendo poi di città in città, perseguitato da tutti e odiato come traditore delle leggi, riguardato con orrore come carnefice della patria e dei concittadini, fu spinto in Egitto. Colui che aveva mandato in esilio numerosi figli della propria patria morì presso gli Spartani, fra i quali si era ridotto quasi a cercare riparo in nome della comunanza di stirpe. E ancora colui che aveva lasciato insepolta una moltitudine di gente finì non pianto da alcuno, privo di esequie ed escluso dal sepolcro dei suoi padri. Quando il re venne a conoscenza di questi fatti, concluse che la Giudea stava ribellandosi. Perciò, tornato dall'Egitto, furioso come una belva, prese la città con le armi e diede ordine ai soldati di colpire senza risparmio quanti capitavano e di uccidere quelli che si rifugiavano nelle case. Vi fu un massacro di giovani e di vecchi, sterminio di uomini, di donne e di fanciulli, strage di fanciulle e di bambini. 80.000 in quei 3 giorni furono spacciati, 40.000 nel corso della lotta, e in numero non inferiore agli uccisi furono quelli venduti schiavi. Consenzio di questo, Antioco osò entrare nel tempio più santo di tutta la terra, avendo a guida quel Menelao che si era fatto traditore della legge della patria, e afferrò con empie mani gli arredi sacri, quando dagli altri re era stato deposto per abbellimento e lo splendore del luogo è per segno d'onore, egli lo saccheggiò con le sue mani sacrileghe. Antioco si inorgoglì, non comprendendo che il Signore si era sdegnato per breve tempo a causa dei peccati degli abitanti della città e per questo c'era stato l'abbandono di quel luogo. Se il popolo non si fosse trovato implicato in molti peccati, come era avvenuto per Eliodoro, mandato dal re Seleuco a ispezionare la camera del tesoro, anche costui il suo ingresso sarebbe stato colpito da flagelli e sarebbe stato distolto dalla sua audacia. Ma il Signore aveva eletto non già il popolo a causa di quel luogo, ma quel luogo a causa del popolo. Perciò anche il luogo, dopo essere stato coinvolto nelle sventure piombate sul popolo, da ultimo ne condivisi i benefici, esso, che per l'ira dell'Onnipotente aveva sperimentato l'abbandono, per la riconciliazione del grande sovrano, fu ripristinato in tutta la sua gloria. Antioco dunque, portando via dal tempio 1800 talenti d'argento, fece ritorno in fretta in Antiochia, convinto nella sua superbia di aver reso navigabile la terra e transitabile il mare per effetto del suo orgoglio. Egli lasciò sovrintendenti per opprimere la nazione. In Gerusalemme Filippo, frigio di stirpe, ma nei modi più barbaro di chi l'aveva nominato. Sul Gerizim Andronico, oltre loro Menelao, il quale più degli altri era altezzoso con i concittadini, nutrendo un'ostilità dichiarata contro i giudei. Mandò poi il misarca Apollonio con un esercito di 22.000 uomini con l'ordine di uccidere quanti erano in età adulta e di vendere le donne e i fanciulli. Costui, giunto a Gerusalemme e fingendo intenzioni pacifiche, si tenne quieto fino al giorno sacro del sabato. Allora, sorpresi i giudei in riposo, comandò ai suoi una parata militare e trucidò quanti uscivano per assistere alla festa. Poi, scorrendo con gli armati per la città, mise a morte un gran numero di persone. Ma Giuda, chiamato anche Maccabeo, che faceva parte di un gruppo dei dieci, si ritirò nel deserto, vivendo tra le montagne alla maniera delle fiere, insieme a quelli che erano con lui, e vivevano cibandosi di alimenti erbacei per non contrarre contaminazione.